Buonasera a tutte, parte la seconda puntata di Sui Generis. Sono rimasta agli anni 80, ma posso migliorare. Stasera mi fa piacere condividere con voi un percorso che ci riporta alle cantanti blues degli anni 20, partendo da alcune ricerche che ho fatto dopo la visione del film Bessie, che parla di Bessie Smith, l'imperatrice del blues. Ho avuto la possibilità di addentrarmi un po' in questo mondo, facendo poi anche delle ricerche successive. Per conoscere meglio cantanti come Ma Rainey, Bessie Smith appunto, Lucille Bogan, Gladys Bentley, Ethel Water, Roberta Hunter, tutte cantanti lesbiche, in alcuni casi bisex, che in quel periodo tenevano alto il nome del blues in America. La prima canzone che vorrei farvi sentire è una canzone che è stata interpretata da Bessie Smith che nel 1925 è stata arrestata per un'orgia con le sue coriste a casa sua. La canzone viene definita un inno ribelle, ma anche un brano di considerato come predecessore del movimento di autoaffermazione lesbica degli anni 70, così perlomeno lo identifica Angela Davis. L'estratto che adesso vorrei farvi conoscere è tratto sempre dal film Bessie Smith, dalla traduzione anche che è stato fatto durante il film, in cui Ma Rainey canta la canzone e dice: ieri sera sono uscita con le mie amiche, erano tutte donne perché non mi piacciono gli uomini, mi sono vestita come un damerino, parlavo con le ragazze ed avevo navigato, tutti dicono che lo faccio ma nessuno mi ha mai beccata. devono riuscirlo a dimostrare, Provington Blues. Naturalmente il testo va interpretato nel contesto di quegli anni, che erano appunto gli anni 20. La versione che sentiamo oggi è una versione di Guy Adegbalola, dall'album Bittersweet Blues del 1999. Ed è appunto il pezzo che ci apprestiamo a sentire adesso, Provitin Blues. A dopo. Went out last night, had a great big fight. Everything seemed to go on wrong. I looked up to my surprise, the gal I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks say I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. They said I'd do it, ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me. I went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, cause there sure were no men. It's true I wear a collar and a tie, make the wind blow all the while. They say I do it, well ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me. To prove it on me. I went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, cause there sure were no men. I wear my clothes just like a fan. I talk to the gals just cause I can. They say I do it, ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me, yeah. Sure got to prove it on me. Era Provitin Blues in una versione un po' ripulita. La versione originale è sicuramente scricchiante e comunque disponibile in rete senza troppe difficoltà di ricerca. Ma soffermiamoci un attimo per parlare di Ma Rainey. Insomma, soprannominata The Mother of Blues, Ma Rainey nasce a Columbus, in Georgia, nel 1886 e diventa famosa soprattutto nel sud degli Stati Uniti, dove apprende il folklore afroamericano e influenza la sua generazione di cantanti degli anni 20. È stata anche definita The Blues Singer, Where There Were No Female Blues Singer, o anche The Ugliest Woman in the Show Business, probabilmente per i denti d'oro abbinati alla sua collana donata di monetine. Il suo pezzo forte sul palcoscenico era l'entrata strategica dal cassetto di un gigantesco fonografo. Ma Rainey comincia ad esibirsi da adolescente e vince un tale show. Comincia quindi un tour per il sud degli Stati Uniti, componendo alcuni pezzi propri e organizzando le proprie performance. Nel 1923 la sua popolarità continua a crescere, tanto che ottiene un contratto con la Paramount insieme ad alcune prestigiose collaborazioni con Louis Armstrong. Il suo incontro più interessante di carriera e di vita forse è quello con la giovane cantante Bessie Smith, incontrata per strada, come si vede nel film di cui parlavo prima, Bessie, per la strada di un tour. Poi, appunto, Ma Rainey l'ha presa sotto la sua ala. Non è stato ben definito quale fosse il rapporto fuori dal palcoscenico delle due cantanti, ma entrambe sono note per aver avuto e dichiarato le proprie relazioni amorose e sessuali con altre donne. Prima di continuare con questo racconto, mi fa piacere farvi sentire adesso una canzone di Bessie Smith che si chiama Don't Cry Baby. Tesoro, ti prego, non piangere, mi ascolti? Non c'è alcun motivo per cui noi non dovremmo essere d'accordo. Mi scuso se ti ho ferita. Tu sei l'unica che idealizzo. Non piangere, bambina, non piangere. Asciugati gli occhi e cerchiamo di essere ancora innamorate. Non voglio farti sentire triste. Onestamente non avrei mai voluto farlo di nuovo. Sentiamo quindi Bessie Smith in Don't Cry Baby. Era Bessie Smith con Don't Cry Baby. Continuando con il racconto, la cosa più interessante che mi faceva piacere, di cui mi faceva piacere parlare non è tanto l'identità sessuale di Ma Rainey, Bessie Smith o di molte altre all'interno dell'ambiente del blues di quel periodo, ma l'esplicita e espressante costruzione della propria immagine lesbica o bisessuale di fronte al pubblico. Molte cantanti blues di quel periodo infatti vivevano fuori dagli schemi tradizionali previsti per una donna. I loro testi parlavano senza remore nei club del sesso, dell'omosessualità, dell'amore, dell'alcol, del gioco d'azzardo e spesso in virtù del blues non ne subivano le conseguenze sociali, perché la loro libertà in qualche modo andava oltre il loro carattere e veniva anche da un supporto della comunità afroamericana. Questo permise loro di essere in qualche modo le percorritrici di forme di protesta femminista che univano la questione del razzismo a quella del sessismo, anticipando gli anni delle formule di politicizzazioni personali che saranno poi diffuse nel Novecento. Inoltre, non facevano parte di nessuno mainstream dell'America tradizionale. Infatti, le blues woman del tempo potevano esprimere proprio per questo motivo i loro desideri non convenzionali e rimanevano quindi in qualche modo un po', diciamo, nell'ombra della cultura afroamericana. Il mondo del blues quindi era perfetto per questa tipologia di manifestazione. In qualche modo, inoltre, il fatto di far parte di gente dello spettacolo dava un'ulteriore possibilità di espressione a quelli che erano i propri desideri e l'impossibilità, non tanto l'impossibilità, è la possibilità, direi piuttosto, di ris non rispettare i costumi sessuali del tempo. Questo in qualche modo prosperava in modo sempre maggiore, e lo vedremo perché in qualche modo ha a che fare anche con la rivoluzione di Harlem di quel periodo. In qualche modo andava un po' fuori dalla portata della cultura americana dominante del periodo. Nei jazz speakeasy, i bar dove dell'era del proibizionismo, queste cantanti quindi avevano la libertà di esplorare la loro sessualità nei testi. In alcuni testi si parla di bull dykers, BD woman, le lesbiche butch. In particolare, proprio in un testo, si parla di questo, nel testo di Lucille Bogan, che si chiama proprio BD Woman Blues, Bull Dyke Woman Blues. Sta arrivando un tempo in cui le BD Woman non avranno bisogno di nessun uomo, perché il modo in cui ci trattano è vile e sporco. BD Woman, tu sicuramente non puoi capire. Hanno la testa come un angelo dolce e camminano proprio come un uomo naturale. BD Woman fecero il modo che tutte potessero, le BD Woman fecero il modo che tutte potessero conoscere il loro piano. Tutte bevono un sacco di whisky e di sicuro sapranno mostrare il meglio. Sentiamo, prima di continuare appunto con questa escursione, quindi il testo di Lucille Bogan, BD Woman's Blues, in una versione del 1935. Just like a natural man. They all don't like that night. They can lay their jive just like a natural man. Woman nella versione scricchiolante del 1935, potete immaginare che trovare questi pezzi non è facile, soprattutto non è facile trovarli di buona qualità. Stavamo dicendo appunto che spesso le cantanti blues del periodo si esibivano negli speakeasy americani. Il termine speakeasy, che in qualche modo ci racconta dei locali che andavano di moda, in quel di moda, erano dei locali che in qualche modo si svilupparono durante gli anni del proibizionismo, si è originato in Pennsylvania nel 1988, quando, dopo la legge Books-Height sulle licenze commerciali, la tassa statale per i saloon aumentò da 50 a 500 dollari. Quindi il numero dei bar legali crollò drasticamente e Kate Hester, che aveva un saloon a McKeesport, vicino Pittsburgh, si rifiutò di pagare la tassa e aprì uno speakeasy. Si dice che si chiamasse così speakeasy perché lei a un certo punto nel locale urlava "Speakeasy boy", nel senso di "parlate piano ragazzi", in modo tale che in qualche modo non si potesse attirare l'attenzione delle autorità. Erano molto popolari in quel periodo, appunto stavamo dicendo, e contribuirono al cosiddetto rinascimento di Harlem, dove in qualche modo perché ce n'erano tanti ad Harlem, in quei luoghi la gente di colore amava bersi e divertirsi a riparo della discriminazione razziale. In quel periodo la meno nota Gladys Bentley, con capelli corti e smoking, faceva molto pubblico alla Harlem Clam House come drag king, cantando cabaret, solleticando i testi nel pianoforte e in qualche modo, diciamo, fieltando spudoratamente con le donne del pubblico. Lei è stata anche, diciamo, nominata la Beth Ditto del suo tempo. La Clam House, il locale dove era solita suonare, era famoso proprio per le sue esibizioni. Era diventato un po' un luogo dove lesbiche nere e gay andavano a passare le loro serate. In qualche circostanza anche i turisti di colore, cioè non di colore, si spostavano da Manhattan per andare ad Harlem e per andare a vedere i suoi spettacoli. Adesso sentiamo un suo pezzo sempre del tempo, che si chiama Lay Hit on the Line. Questo è il pezzo di Gladys Bentley, lo ascoltiamo. I haven't any worldly goods, got no property, I got no cash, cause I've been rash with generosity. I met a hollow gentleman who says what's yours is mine. So now I'm known around his shrine as an angel glad alive. I'm living up in heaven, and I'm living mighty fine. Since I laid it on the line, oh, Father, so fine. Everything is classy, on my chassis I recline. Since I laid it on the line, oh, Father, so fine. The place is full of music, why, folks, you ought to hear it. You know, I get something every night, and I'm sure it ain't no spirit. Cause I'm sitting up in heaven, drinking sacramental wine. Since I laid it on the line, oh, Father, so fine. I get champagne and chicken almost every night I dine. No, I don't eat with them angels, I'm on Father's time. Nylons may be rations, my legs look just too fine. Since I laid it on the line, oh, Father, so fine. Now I had a chance for a hot romance with a deacon from Cincinnati. Told that old deacon in advance, all I got belongs to daddy. You heard of Blessed Adventures? Well, sister, I've had mine since I laid it on the line. Oh, Father, so fine. If you want me, call Hudson 90939. As for Super Gladeline, collecting all the time. When those chicks walk in for breakfast, they say, peace, it's truly fine. When I say peace, I mean it, and he can read between the lines. And when Gable blows his trumpet, I don't even hear it. I'm laid up in that kingdom, full of hallelujah spirit. When he calls in all his angels, he says, all these chicks are mine. Since I laid it on the line, oh, Father, so fine. Peace, brother. It's wonderful. Oh, Father, so fine. Andiamo adesso ad ascoltare un pezzo di Kate Nash, una rivisitazione acustica del pezzo originario dei Black Keys. Il pezzo si chiama I'm Not Going to Teach Your Boyfriend How to Dance With You. Ascoltiamo Kate Nash. We'll be right back. Ritorniamo invece adesso a quello che è il tema di questa puntata, ovvero le cantanti blues lesbiche e bisessuali degli anni 20. Ci eravamo fermate con il racconto di Gladys Bentley, che suonava in un locale chiamato Clam House, che si trovava nella 130esima strada di Harlem. Nella strada vi erano molti locali notturni che in qualche modo davano voce a quello che era il Rinascimento di Harlem, un movimento artistico e culturale sorto in quel periodo ad opera della comunità afroamericana. Il centro era naturalmente Harlem a New York, ma successivamente diciamo questa tipologia di locali e questa tipologia di rinascimento si è spostato da New York a tutti i centri urbani, a molti centri urbani degli Stati Uniti. Attraverso lo sviluppo di forme d'arte come la letteratura, il teatro e la musica, appunto, ma anche delle scienze sociali, sociologia, storiografia, filosofia, molti degli intellettuali di quel tempo trovarono delle vie per esplorare e approfondire l'esperienza storica degli afroamericani, nonché la vita dei neri all'epoca delle grandi città, nelle grandi città degli Stati Uniti. E in questo modo, sfidando un po' gli atteggiamenti paternalistici e razzisti dei bianchi, questa tipologia, questi artisti rifiutarono di limitarsi a imitare appunto quello che era lo stile e la cultura dei bianchi d'America di quel periodo e rivendicavano la loro libertà di esprimersi a proprio modo, e questo sicuramente è diciamo, un aspetto che accomuna moltissimo le cantanti blues di quel periodo. E quindi in qualche modo diciamo questa rinascita, chiamiamola così, ha dato sfogo a quello che era il movimento diciamo anche delle cantanti lesbiche. Ma una cosa interessante e anche un po' diciamo fastidiosa da notare è che molte di quelle cantanti che diventarono famose, questo si vede un po' anche nel film su Bessie Smith, nel momento in cui diventavano famose si piegavano un po' a quelli che erano invece le abitudini e la cultura del tempo, senza dire molto, insomma, nel film Bessie Smith, non vi voglio anticipare anche questa cosa che è un po', appunto, come dicevo, può dare fastidio, nel film si nota e si vede assolutamente molto bene. Ma parliamo adesso di un'altra cantante dei tempi, Ethel Waters, coinvolta sentimentalmente con la ballerina Ethel Williams, tanto che esibendosi insieme le due si chiamavano le Two Ethels. Le due avevano vissuto come amanti, e chiaramente questo non era proprio esattamente ben visto nel tempo, in quel tempo, dalla cultura mainstream. E il testo che voglio farvi sentire adesso è You Can't Stop Me From Loving You. Appunto è il testo sempre di quel periodo di Ethel Waters. Lo ascoltiamo adesso insieme. Siamo su Radio Onda Rossa e questo è il martedì lesbico e femminista. A dopo, adesso ascoltiamo Ethel Waters. Oh, you great big brute, how you mistreat me, oh you great big brute. You can't defeat me, you can shower me with abuse, but you'll never shake me loose. Oh you great big brute, you can browbeat me, but I'm telling you it's no use. Say I get in your hair, well baby I don't care. You can throw bricks at my window, you can put tacks in my shoe, you can sprinkle ground glass on my apple sass, but you can't stop me from loving you. You can put rocks in my pillow, you can put sand in my stew, you can be as aloof as the Chrysler roof, but you can't stop me from loving you. You can sneer at my devotion, be as mean as you can be, ridicule my great emotion, but you're never gonna discourage me. You can put locks in my cornflakes, tell me my brain's good as new. You can laugh in my face when you trump my ace, but you can't stop me from loving you. You can put flit in my gargle, seal up your pockets with glue. You can even throw fleas on my Pekingese, but you can't stop me from loving you. You can go tell Walter Winchell every darn thing that I do. You can tear me to rags just to give him gags, but you can't stop me from loving you. You can cut up my umbrella, even put a thistle where I sit. You can make me take vanilla when you know I'm crazy about chocolate. You can wear socks without garters, carry lace handkerchiefs too. You can smell of Chanel on your coat lapel, but you can't stop me from loving you. Oh, wa-da-da-da, wa-da-da-da, wa-da-da-da, wa-da-da-da. Ah, wa-da-da-da, wa-da-da-da-da-da, wa-da-da-da. I'm teeing off, but you can't stop me from loving you. Ascoltiamo invece adesso, per rimanere in tema, però con dei tempi un po' più moderni, ma neanche voi tantissimo, un pezzo di Janis Joplin, un contributo a Bessie Smith. Il pezzo è molto famoso e si chiama Nobody Knows You When You Are Done and Out. Ascoltiamo Janis Joplin. Friends out for mighty good time, buying them high price liquor, champagne, wine. Then one day, hon, I began to fall so low. I didn't have a friend, you know, I didn't have no place to go. Ever get my hands on a dog? To what you know, to eagle grins, 'cause you know that nobody knows you. Honey, when you're down and out, in your pockets alone, honey, got a penny. Honey, and all your good friends will look around you, you ain't got any. Soon as I get upon my feet again, everybody comes running around me, wanna be my friend now. You know, it's mighty strange, but turn out it's true without a doubt. No one can use you, honey, when you're down, down and out. Thank you. as you get up on your feet again. Everybody's gonna come running around you, wanna be your friend. Yeah, it's mighty strange, and I tell you it's true without a doubt. No one can use you, honey, when you're down and out. I know I mean it, baby, when you're down and out. Di chiudere la puntata con l'ultimo pezzo, volevo raccontarvi un altro aspetto di questa storia che riguarda la Rise Record, che è niente altro che un'etichetta musicale che in quegli anni aveva in qualche modo contribuito a far sì che il rinascimento di Harlem fosse ancora più vivo. Si tratta infatti di un'etichetta di primi dischi a 78 giro per il mercato dei neri, che in qualche modo si era specializzato nella musica blues, jazz, gospel e successivamente anche nella registrazione di commedie. Questo in qualche modo aveva contribuito a far sì che quel movimento di Harlem di cui prima parlavamo avesse ancora più risonanza. Negli stessi anni, per concludere appunto i vari aspetti di questa storia, accadeva che c'era anche un altro movimento, il movimento il movimento flapper, a cui un po' le cantanti blues si sono ispirate e viceversa, ovvero donne di quegli anni che cominciavano a essere un po' più indipendenti rispetto alla fine dell'Ottocento, perché comunque l'industrializzazione in qualche modo è la nuova cultura che si stava un po' cominciando a vivere, nonché appunto un po' di autonomia li permetteva di essere, volevano essere un po' come un'espressione di rivoluzione sessuale. Queste donne bevevano, si vestivano in modo abbastanza, diciamo, sgargiante e non si sottomettevano agli uomini e andavano quindi anche contro a quella che era la cultura post-vittoriana del tempo. Questo è un aspetto anche che si percepisce e si può trovare nelle cantanti blues, che andavano contro a quelli che erano invece i bigottismi dei neri borghesi. Per concludere infatti questa serata, questa puntata sulle cantanti blues degli anni 20, vorrei sentire l'ultimo pezzo, che è un pezzo di Bessie Smith che si chiama Young Woman Blues, in cui appunto si afferma questo, si dice che le donne, non sono una donna giovane, non mi voglio sposare, non ho il tempo per sistemarmi. Chiudiamo la puntata quindi con questo pezzo di Bessie Smith, Young Woman Blues, e ci rivediamo alla puntata numero 3, che sarà a gennaio. A presto. Reading Nobody knows my name. Nobody knows what I've done. I'm as good as any woman in your town. I ain't no yeller. I'm a beginner. Oh, you know, it's time.